Il nostro appuntamento, andiamo in un'altra tendopoli dove ci aspetta il coordinatore di tutta l'Emilia per l'altro delle tendopoli gestite dall'Associazione Alpini e a Finale Emilia nel cuore del sisma, Diego Gottarelli, buongiorno. Buongiorno. Prima domanda d'obbligo, piove questa mattina o va un po' meglio? No, questa mattina va decisamente meglio, diciamo così. È tornato il sole, vi semplifica la vita almeno un po'? Da quel lato del fango sicuramente, poi ci sarà il problema del caldo, ma prendiamo quello che ci danno, non è un problema. Ecco, perché se non piove il problema invece è sotto le tende, e molti l'hanno raccontato in questi giorni degli sfollati, è il gran caldo. Sì, è il gran caldo, ma comunque ci stiamo già preparando per affrontare questo tipo di problema. Come abbiamo fatto in Abruzzo, nelle tendopoli dell'Abruzzo, faremo anche nelle nostre tendopoli, quindi stiamo trovando il sistema molto più semplice per ombreggiare le tende in prima battuta, per poi passare a dotare ogni tenda di un piccolo condizionatore in modo da alleggerire quello che è il disagio nelle ore diurne, diciamo così. Ecco, in questi giorni abbiamo raccontato come si vive in queste tendopoli, in realtà non vi ho mai chiesto, ma a questo punto vale la pena anche di farlo, di cosa avete bisogno, di cosa c'è più bisogno in queste ore? Ma guardi, noi subito abbiamo, una volta passata la prima emergenza, abbiamo cercato di dotare il campo di tutti quei piccoli comfort, fare in modo che ognuno si senta in qualche modo, ecco, un po' a casa sua. Quindi abbiamo pensato ai bambini, abbiamo pensato agli anziani, e quindi dotandoli di quei supporti, tipo la scuola, tipo il centro ricreativo per i bambini, fare un po' di parco per gli anziani durante il giorno, un parco insomma è lì vicino al nostro campo, quindi aprire la rete e metterli sotto, diciamo, all'ombra, in maniera così da fare passare la giornata in maniera più semplice, più gradevole. E per quanto riguarda il resto, i passati primi momenti dove era difficile un po' approvvigionare il tutto, sta arrivando di tutto al campo, sta arrivando generi alimentari, generi di conforto. Diciamo che si sta passando ad una seconda fase, insomma, esatto, sì, in cui ci si organizza. Alcuni suoi colleghi ci raccontavano che stanno spuntando i tavolini fuori dalle tende, stanno spuntando oggetti personali. Siamo un po' alla seconda fase in cui la tenda è un po' meno anonima e ci si diventa un luogo di vita. Diventa più casa, diciamo così, ecco. Per quanto sia possibile, naturalmente. Per quanto sia possibile, ecco, perché la tenda rimane comunque sempre una tenda, ecco. Quindi, però ecco, tutto. Siete già svegli, pronti per le colazioni? Ormai è una domanda di tutte le mattine? Beh, sa, all'interno del campo i nostri volontari, oltre allo sforzo, diciamo, di curare tutto il funzionamento del campo, c'è una parte che è molto importante, che è quella che riguarda la ristorazione, cominciare dal capo cuoco ai cucinieri, a tutto quello che ci va dietro, che sono quelli che sono sempre in prima linea impegnati H24, perché finiscono di fare la cena, già devono pensare. Quante persone avete a Finale Emilia? Ieri sera l'ultimo conto era 310 ospiti più 40 volontari. E quindi 350 colazioni anche questa mattina da preparare. Esatto. Buon lavoro. A Finale Emilia, Diego Gottarelli, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. Niente pioggia, avete sentito, è tornato il sole, anche il gran caldo. Continueremo a raccontarvele queste storie anche nelle prossime mattine.